You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due. Sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Benvenuti da Valentina Furlanetto a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ha come tema quello dell'identità, del pregiudizio, del razzismo e anche della cucina. Abbiamo aggiornato la nostra sigla, lo sapete da un po' ormai, con questo estratto dai Sopranos e mai come in questa puntata questo insert di questa fiction è a proposito, perché si parla chiaramente di pregiudizio, di razzismo, e questa sera ne parliamo con una scrittrice, una regista, l'autrice di Razzismo all'italiana, cronache di una spia mezzo sangue, Aracne editrice. Io do il benvenuto a Marilena Delli. Grazie, grazie Valentina, buonasera a tutti. Marilena è bergamasca, papà italiano, mamma ruandese. Esatto. Sì, diciamo che sono il risultato di due culture completamente diverse, anche se diciamo io sono nata in Italia, cresciuta in Italia, insultata in Italia, quindi sono italiana al 100%, direi che più che accurato. E i miei genitori sì, hanno queste due culture completamente diverse, ma mio papà, diciamo che anche se bergamasco, è sempre stato, si è sempre sentito più africano che italiano, e mia mamma, pur venendo da Ruanda, si è sempre sentita più italiana che africana. Questo perché papà ci ha cresciuti con i suoi racconti dal Malawi, dal Ruanda, la sua esperienza in Africa, dove è stato quasi 15 anni, dove ha conosciuto mia mamma, ed è stato sempre un po' selvaggio, anche nei modi. Invece mia mamma ha sempre guardato all'Europa, all'Italia come modello, si è sempre vestita all'italiana, truccata all'italiana, sempre al passo con la tecnologia, i piatti del momento italiani, e quindi è stato interessante crescere con loro. Prima di tutto però so che tu sei venuta a cena a Radio 24 portandoci un piatto. Allora, io ne avrei tantissimi di piatti, proprio perché venendo da due culture completamente diverse, la nostra tavola è sempre stata un mix tra non solo la cultura italiana e ruandese, ma anche quella belga, perché mia mamma, il paese di mia mamma è stato colonizzato dai belgi per tantissimi anni, e quindi ne ha risentito anche la sua cucina. Quindi io vorrei partire con come antipasto delle pannocchie fresche e tenere bollite, che sono il piatto forte, senza niente, senza burro, senza niente, così. Questo è il piatto di punta per iniziare la nostra cena. E poi proseguirei con una bella polenta e coniglio, che è immancabile sulla tavola bergamasca tipica. E che anche tua mamma ha imparato a fare, no? Assolutamente sì, ho imparato a fare lasagne fatte in casa, tutti questi piatti anche di Bergamo che ho imparato dalle sciure bergamasche, comunque del nostro vicinato. E poi Io proseguirei con un dessert che sono i biscotti alle arachidi, che questi sono il nostro piatto forte, che hanno sempre conquistato tutti perché sono buonissimi e sono quasi 100% arachidi. Un arachide, cioè un biscotto d'arachide, è pesantissimo, è come mangiare un intero pranzo nuziale, perché è veramente pesante, però è la fine del mondo. E questi sono insomma tipici del Ruanda. Sì, sì, sì, e vorrei aggiungere anche le crepe belghe, ecco, per una colazione perfetta. A differenza delle crepe normali, aggiungono, diciamo, una mezza bustina di lievito, quindi sono più spesse, e quindi è questa la differenza dalle crepe normali francesi. E sicuramente, ecco, qui abbiamo mixato Bergamo, Ruanda e Belgio. Esperienza coloniale, perché sono rappresentativi, sì. Perché noi parliamo ovviamente di cucina per parlare di identità, e sono rappresentativi della tua vita, della tua identità e anche della storia della tua famiglia, che tu hai voluto raccontare in questo libro. Molto interessante, perché in maniera scanzonata, provocatoria, hai voluto parlare della tua esperienza tragicomica, direi, di integrazione in Italia. È una città, Bergamo, dove la tua famiglia decise di trasferirsi proprio negli anni della nascita e del diffondersi anche della Lega Nord, e quindi un contesto culturale non favorevole e molte anche situazioni di pregiudizio, di razzismo, nelle quali ti sei trovata tu, la tua mamma, tua sorella, a doverti districare, che racconti molto bene nel libro, ne parleremo. Ma ci sono ovviamente anche dei brani che raccontano la storia della tua famiglia, perché tuo papà era un sacerdote, no? Sì, lui è stato missionario in Africa per praticamente 13 anni quando poi ha incontrato mia mamma, ha deciso di lasciare la tonaca e di diventare, da padre di chiesa, padre di famiglia. La figura di mio padre è importante nel libro, e importante anche per me. È stato un personaggio mio padre, anche perché comunque era un leghista convinto, quindi nonostante la sua vita fosse tutta, secondo me, scritta a sinistra, lui mi votava a destra, mi votava Lega Nord. Non voglio entrare nel merito, non voglio parlare di politica, però ecco, sicuramente crescere con un papà così è stato un po', come posso dire, difficile, però ecco, assolutamente una persona fantastica in famiglia, anche comunque in parrocchia è sempre stato attivo proprio per via del suo background religioso. Era catechista, molto amato dai ragazzi perché amava giocare anche a pallone, coinvolgere le persone in attività, insomma. Ha dovuto anche darsi molto da fare per mantenere la famiglia dopo aver lasciato la chiesa, quindi anche tu racconti situazioni di difficoltà della tua famiglia, nelle quali i tuoi genitori sono stati dei pilastri, no? Vi hanno aiutato, sì, in maniera molto forte a crescere e anche a superare dei momenti economicamente difficili. Esatto, anche perché quando papà poi è tornato in Italia dall'Africa ha dovuto ripartire da zero e soprattutto ha avuto, cioè, amici contro, famiglia contro, chiesa contro. Infatti i miei genitori non si sono sposati in chiesa all'inizio, hanno dovuto aspettare 9 anni. Infatti mia sorella e io abbiamo assistito al matrimonio dei miei genitori in chiesa dopo che il papa, dopo lettere e continue insistenti, ha accettato comunque il rapporto, dei miei genitori, il rapporto coniugale dei miei genitori, li ha finalmente riconosciuti, e quella è stata una grande, diciamo, conquista, diciamo, per loro. E quindi ho assistito al matrimonio dei miei genitori, è stato spassosissimo, l'abbiamo festeggiato nella mensa della fabbrica di cui mio papà era custode, perché noi abitavamo in questa fabbrica, la nostra casa era nella fabbrica, e quindi non avevamo molti mezzi economici, anzi ricevevamo aiuti di ogni tipo, no? Abbiamo avuto molte difficoltà da quel punto di vista, che tu racconti molto bene. Cioè, a un certo punto il papà ha perso il lavoro, eravate senza riscaldamento, senza luce, siete senza acqua corrente, quindi una situazione di forte difficoltà, superata volta, però grazie al spirito di intraprendenza del papà e anche della mamma, che aveva anche, sì, che ha anche una disabilità. Esatto, mia mamma purtroppo a 5 anni è stata rapita dai coloni belgi insieme agli altri bambini del suo villaggio, ed è su cui facevano esperimenti, purtroppo è stata la portata a contrarre la poliomielite, e questo ha causato un grandissimo problema fisico, disagio fisico, che l'ha portato poi ad avere una gamba appunto zoppa, e lei adesso è disabile al 100%, perché purtroppo questa è una malattia degenerativa. Nonostante questo si è data molto da fare, ha lavorato, è diventata segretaria di un'azienda, nonostante anche l'ostracismo di colleghi della comunità nella quale lavorava, è riuscita a fare carriera come lei desiderava già in Ruanda. Una storia appassionante di una famiglia, di una dinastia, mi verrebbe da dire, perché si vedono i passaggi generazionali, si capisce come siete riusciti cambiare la vostra vita. Tu adesso sei regista e scrittrice. Ci fermiamo brevemente per una piccola pausa, torniamo a parlare con Marilena Adelli tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto, sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Musica. Allora rientriamo in studio a Indovina chi viene a cena. Questa sera abbiamo una scrittrice, Marilena Adelli, autrice del libro Razzismo all'italiana, cronaca di una spia mezzo sangue. Abbiamo messo la musica di Jovanotti perché è una delle artisti con cui Marilena ha collaborato in questi anni, firmando documentari, video musicali e con band, artisti di tutti i continenti, fra cui anche Jovanotti. Marilena ha scritto questo libro, che è un libro allo stesso tempo duro ma anche ironico, in cui racconta la sua infanzia, la sua adolescenza in una famiglia con mamma del Ruanda, papà italiano che ha vissuto in Ruanda e in Malawi, ha abbandonato la toga per la famiglia, poi sono andati a vivere prima in Abruzzo, poi a Bergamo, con tutte le difficoltà di crescere in un contesto in cui Marilena, no, lei era l'unica o quasi l'unica bambina mulatta, nel suo caso comunque di colore, a Bergamo. E non è stato facile, vero? Assolutamente no. Diciamo che prima del mio primo giorno di scuola elementare io non avevo un concetto di colore. Poi i miei compagni carissimi mi hanno regalato questo elegante appellativo, Negretta, che mi è rimasto appioppato per diversi anni, e da lì ho iniziato a sviluppare un odio verso il nero e quindi verso il colore della mia pelle, indirettamente anche verso mia mamma. I bambini mi prendevano spesso di mira, mi escludevano dai giochi di gruppo, e quindi è stato per me naturale sviluppare questa avversione. Addirittura lei i cagnolini neri non li sopportava, voleva coccolare quelli bianchi, quelli chiari. suona orribile, però noi avevamo questa cagnolina che partoriva almeno due volte all'anno e che aveva queste cucciolate. Quando per disgrazia nasceva un cagnolino nero, io cosa facevo? Lo prendevo e puntualmente lo facevo ruzzolare giù dagli scalini della cantina. E per lei scrive: ero io stessa razzista. Ero io stessa razzista, certo. Infatti, una forma di rifiuto per le origini della mamma, forse. Esatto, per esempio anche quando i miei genitori bisticciavano, io davo ragione a mio papà piuttosto che a mia mamma, perché lei era nera e io ero nera a causa sua. Adesso mi spiace dirlo, però in quegli anni io mi sentivo così, e per questo che col passare del tempo ho cercato di diventare il più bianca possibile. C'è stata una trasformazione in cui io volevo, ho iniziato a stirarmi i capelli, usare orribili prodotti disarriccianti che hanno ammazzato i miei capelli ricci praticamente, e ho iniziato a sbiancarmi anche la pelle proprio per assomigliare ai modelli comunque mediatici, alle eroine dei libri che leggevo a scuola, ai cartoni animati che guardavo, e sentirmi così più a mio agio. Per un certo periodo mi sono sentita a mio agio, però la gente comunque ancora non mi riconosceva come italiana, ancora mi chiedeva di dove ero e mi diceva che è bell'accento che hai. Quando ero piccola dicevano a papà che bella bambina, ma papà spiegava: no, io sono suo papà, non è adottata. 30 anni dopo gli avrebbero detto: è la sua badante? No, è mia figlia. Quindi gli stereotipi sono bambina adottata, badante, oppure a mezza via, lei scrive prostituta, anche... perché l'associazione che si fa o che si faceva, speriamo si faceva, era quella donna nera prostituta. Anche questo tipo di razzismo ho dovuto sopportare. Sì, di ogni tipo. Oppure anche mia madre, per esempio, mi chiedevano, quando io spiegavo che mia mamma lavorava, dicevano: lavorava in un'azienda americana, dicevano: pulisce le scale sempre, quante volte? Io spiegavo: no, fa la contabile in azienda, e poi pian pianino ha fatto carriera. Oppure l'esperienza anche di razzismo che ha vissuto mia mamma, per esempio alle urne di Seriate, quando è giunto il momento di votare, ha sempre votato mia mamma, perché nel momento in cui nel 1980 lei è arrivata in Italia, avendo sposato un italiano, ancora le leggi permettevano a una persona straniera che sposa un italiano di diventare automaticamente cittadino italiano, quindi lei ha sempre votato. Quando si è trasferita proprio nella città di mio papà a Bergamo, lì ha iniziato ad avere problemi, non l'hanno fatta votare. Innanzitutto anche la cafoneria di darle del tu invece che del lei, una signora che comunque aveva più di 30 anni con dei figli sposata, e mia mamma è dovuta andare comunque in tribunale. Ci sono voluti mesi prima di finalmente perché le fosse riconosciuto il diritto di voto, che comunque già aveva a priori, perché aveva la carta di identità in regola ed era cittadina italiana. Insomma, quello è stato uno dei punti più bassi, però diciamo uno dei tanti. Per fortuna, comunque, ecco, ci tengo a precisare. È un libro arrabbiato, è un libro in cui si sentono le ferite, le cose che ha dovuto subire lei, la mamma, in parte anche il papà, no? Perché comunque lei parlava prima del pregiudizio, invece in quel caso per un ex sacerdote in un contesto un po' bigotto, se posso dire. Sì, poi ci sono temi più leggeri che lei affronta, come quelli che ha introdotto prima, quelli dell'estetica. No? Lo sbiancamento, i capelli afro che vengono stirati, che sembra un tema superficiale, in realtà su questo tema c'è un grosso dibattito fra gli afro italiani, gli afro americani. C'è una scrittrice nigeriana, la Dikie, che dice: Obama forse non sarebbe diventato presidente se Michelle non si fosse stirata i capelli. C'è un sito italiano, Nappi Italia, in cui le afro italiane rivendicano il fatto di potersi mostrare nella loro bellezza afro. Questo esatto. Però è un passaggio di maturazione, anche per lei è stato così? Assolutamente sì, c'è un profondo legame in realtà tra il capello riccio e poi l'identità di una persona che è nata a cavallo tra due culture, no? Come me, come i tanti afro-italiani che sono comunque il futuro, ma già anche il presente della nostra Italia. Accettare il proprio capello riccio, accettare il colore della propria pelle corrisponde quindi ad accettare se stessa e a sormontare tutti quegli ostacoli, quei problemi mentali che noi ci siamo creati e che che purtroppo abbiamo trovato sul nostro cammino fin da piccoli. Come ho detto prima, ho avuto molta difficoltà da piccola con i bambini, erano cattivissimi, mi escludevano dei giochi, però piano piano ho iniziato ad accettarmi, ma non è stato un percorso automatico. Anche adesso porto i capelli boccolosi, ho questi bei ricci, assolutamente non mi metto più, non uso più il sapone sbiancante, ho accettato me stesso, ma ci è voluto un lunghissimo percorso. Innanzitutto mi sento di essere cambiata insieme comunque a quest'Italia che una volta era veramente tutta più bianca. Negli anni 80 e 90 gli immigrati non erano tanti come erano adesso. Oggi invece sono tantissime le persone che come me sono a cavallo tra due culture, che comunque riempiono i banchi di scuola, al lavoro, insomma sono sempre di più. L'Italia sta diventando uno splendido melting pot e a mio avviso i nuovi italiani sono una splendida risorsa per il nostro paese, anche perché non solo come me apprezzano la storia dell'Italia, ne sono assolutamente orgogliosi perché molti di loro sono nati in Italia, cioè studiano in Italia, sono educati in Italia, crescono nella cultura italiana e la amano. E sono italiani. Sentiamo un altro brano, Marilena, di Jovanotti, così poi torniamo a parlare con lei di questa identità fra due culture. Mon ami, je ne parle bien français, je salue Amadou et Mariam. Salut Lorenzo. Je suis content de jouer ensemble cette chanson pour la vie de tout le monde. Soyez les bienvenus en Afrique. Soyez les bienvenus en Afrique. Bali Maya Doumambe Africa. Sindi Doumambe Africa. La bella vita con l'esperienza che segna il volto. Le mani libere in tasca, il giusto nel cuore e molto. La bella vita senza il delirio di onnipotenza. Con la passione che rende amica la sofferenza. La bella vita che dura un'ora tra due infiniti. Ti vorrò bene per sempre, sempre sono minuti. Tre, quattro, la belle vie, l'Afrique, se chi. Marilena ci stava raccontando di questi cambiamenti dentro di lei e non è stato indifferente, immagino, il primo viaggio in Africa che ha fatto. Sì, è stato bellissimo. Nel 2009 siamo andati a visitare il paese di mia mamma, il Ruanda, e lì ho girato un bellissimo documentario, Ruanda Mama, che è stato selezionato nel 2009 al Festival del Cinema in Sudafrica e parla dei 30 anni di ritorno in Ruanda di mia mamma, che appunto era stata assente perché si è sposata, ha fondato la sua famiglia in Italia, e è stato molto emozionante. Lì si è riunita un'amica che credeva morta durante il genocidio del 94, che a sorpresa invece ha ritrovato, e quindi è stato molto emozionante, un'esperienza bellissima. Lei parla del genocidio in Ruanda, tre genocidi del 59, del 73 e del 94. Noi in Occidente abbiamo assistito inermi, come ha fatto anche lei, in realtà per impossibilità di ovviamente di fare di più dai nostri divani, a queste immagini del genocidio del 94. Sappiamo qualcosa di questo genocidio anche da un film che lei cita per riportare una verità su quel film, no? Sì, lo riporto anche nel documentario Hotel Ruanda, che ha per protagonista appunto il manager dell'hotel, e stando al film, alla trasposizione hollywoodiana, lui ha salvato diversi ruandesi, diversi tutsi, no, dal massacro. Sua madre, tra l'altro, è tutsi. Sì, lei è tutsi. Quindi diciamo che è scampata al... sarebbe benissimo potuta essere stata una del milione di morti. Che in meno di 100 giorni appunto purtroppo è stato massacrato in quei giorni, parliamo dall'aprile del 94 fino a luglio. Sì, e Paul Rus Sabagina, che è quel manager, in realtà è un dissidente politico e non ha prestato aiuto senza farsi pagare profumatamente, e quindi in realtà non è quella persona caritatevole che viene descritta nel film, assolutamente no, non ha fatto niente gratuitamente, e è una cosa comunque documentata, che È interessante come mai poi la narrazione dei fatti venga cambiata, modificata, no? Attraverso anche l'immaginario cinematografico. Ogni pagina del suo libro potrebbe essere ampliata e diventare un altro libro, pensavo. Mm. Ad esempio l'infanzia di sua madre, che è stata un'infanzia tragica, difficile. A 5 anni venne catturata insieme ad altri bambini dai coloni belgi, no? Esatto, e mia mamma ha avuto sì, un'infanzia difficile a 8 anni, però ha vinto una borsa di studio e quello le ha permesso di diciamo passare dalla vita ai campi a cui era destinata, visto che tutte le proprietà dei suoi genitori, le mucche, i raccolti, tutto e anche parte della famiglia è andato morendo durante l'incendio che c'è stato durante il genocidio del 59, e ha vinto la borsa di studio e quindi ha potuto continuare gli studi presso delle suore belghe, e poi da lì a neanche 20 anni è diventata già direttrice di una scuola superiore, però anche lì ha incontrato il razzismo, essendo una tuzia e tuzzi non veniva permesso di studiare. I tuzzi come lei potevano o decidere tra cucito oppure insegnamento, era la cosa più ambiziosa che un tuzzi potesse fare in quel periodo, parliamo quindi degli anni 60-70, in cui la discriminazione verso i tuzzi era incredibile, infatti era molto pressante, ha dovuto cambiare 3 scuole come direttrice, e tra l'altro nel 94 la scuola, una delle scuole di cui lei era direttrice, ha visto il massacro di tutte le studentesse e della direttrice di allora, che era una volontaria bergamasca, tra le altre cose, e che noi conoscevamo benissimo. E che Bergamo torna continuamente nella storia dei suoi genitori. Sì, è una costante, ma io ci tengo a sottolineare che Bergamo è sempre nel mio cuore e la adoro. Questo rapporto amore-odio, ma alla fine l'amore trionfa, è per questo che poi alla fine ho anche tornato, ho deciso di tornare a viverci. È un rapporto come una storia d'amore, no? È molto complessa, molto sofisticata, ma Bergamo è sempre dentro di me e sono orgogliosa di dire che comunque sono di Bergamo. Bergamasca, e lo testimonia anche il suo accento. E chiuderei con questa immagine che lei racconta nel suo libro, di questa foto dei suoi genitori davanti al lago in Ruanda, quando si sono conosciuti, sì, ed erano molto giovani, e che racconta l'inizio di questa storia che è continuata con la sua vita, con il suo lavoro, con quello che ci può raccontare in questo bellissimo libro che consiglio, Razzismo all'italiana, cronaca di una spia mezzo sangue. Grazie a Marilena Adelli per essere stata con noi e per averci raccontato la sua storia. Grazie Valentina, grazie a tutti. Grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Se volete scrivermi per consigli, suggerimenti, anche critiche, vfurlanetto@radio24.it. Io vi aspetto per altre storie di identità, pregiudizio e cucina la prossima settimana sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little. That's the glory.